Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è come sempre, anzi come una volta sì e una volta no, di sabato sera è Tonight Alive e la sigla di stasera era Don't Worry If There Is A Hell Below And We Are All Going To Go del 1970 del protagonista della puntata monografica di stasera, ovvero Curtis Mayfield. Anzi, per dirla tutta, Curtis Lee Mayfield, giusto per essere precisi fin dall'inizio. Ma come sempre togliamoci il dente e diciamo subito i nostri indirizzi qua di Radio Wombat. Come sempre il sito è wombat.noblogs.org, la nostra frequenza in onde medie in AM sul vostro autoradio se siete nella zona di Firenze è 1359 1359 in AM, ricordo. E la nostra mail è postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono come sempre Twitter, su twitter.com/radiowombatfi e Facebook su facebook.com/radiowombatfirenze per essere sempre aggiornati sulle ultime news della radio e non solo, anche per tutto quello che succede intorno, vari collegamenti, dirette e collaborazioni con altre radio amiche come Radio Blackout e Radio Onda Rossa, che ringrazio senza di loro un grande aiuto. E partiamo allora con questa puntata di stasera. Curtis Mayfield nasce a Chicago il 3 giugno del 1942, e giusto per non farsi mancare niente nelle classiche storie degli afroamericani, il padre di Curtis, Kenneth Mayfield, quando lui aveva già all'età di 5 anni lascia la famiglia, e sua madre Marion Washington e la nonna si trasferiranno e lo porteranno a Chicago ad abitare in un quartiere popolare subito quando era appunto bambino, dopo tra i 5 e i 6 anni appunto. E sua madre gli insegnò subito i primi rudimenti del piano ed insieme alla nonna incoraggiarono Curtis nell'ascoltare soprattutto la musica gospel alla quale erano molto devote, diciamo. E già, infatti, già all'età di 7 anni, Curtis Mayfield cantava in pubblico nel coro della chiesa vicino casa, nel coro dei Northern Jubilee Gospel Singers, dove fra l'altro incontrò Jerry Butler e i due diventarono fin da subito amici. E Mayfield già sapeva suonare appunto un po' il piano insegnato dalla madre. Però la chitarra, riconobbe che la chitarra fu subito il suo strumento personale. Come racconterà poi in seguito, la mia chitarra era come se fosse un altro me, ci dirà poi in un'intervista di un'età più avanzata. E appunto trasferì nella chitarra tutti i rudimenti che aveva imparato al piano, facendone proprio il suo vero strumento. E quando, già all'età di 14 anni, formò la sua prima band personale, gli Alphatones, quando lui e Jerry Butler dovettero lasciare i Northern Jubilee Gospel Singers, che decidettero di andare a cercare fortuna nella downtown di Chicago, ma loro due erano ancora troppo giovani per un passo del genere e non avevano il benestare dei genitori, quindi restarono lì al palo, ma appunto la loro carriera musicale continuò e dopo gli Alphatones, insieme Mayfield e Jerry Butler entrarono nel gruppo doo-wop dei The Roosters, dei Galletti, nel 1957, che era completato da altri tre ragazzetti provenienti da Chattanooga, Tennessee, ovvero Sam Gooden e i fratelli Brooks, ovvero Richard e Arthur. E già nel 1958 i Roosters vennero presi sotto l'ala dal manager Eddie Thomas, che gli fece firmare il loro primo contratto con la VJ Records per un primo singolo di prova che uscirà a nome di Jerry Butler and the Impressions. Il suono soul di Chicago in quell'inizio degli anni 60 era un suono ovviamente impregnato di gospel, però era anche enfatizzato e diversificato appunto per renderlo fruibile anche al di fuori della musica secolare. Da delle armonie prese appunto dal pop di allora e venne fuori questo quello che venne definito un po' soft soul. E questo stile venne ridefinito con l'aggiunta di fiati, di archi che andarono a integrare gli elementi classici d'arrangiamento della gospel music. E con appunto gli Impressions, con le loro voci, fecero letteralmente volare le armonie gospel. E il loro primo singolo, nonché primo successo, fu in quel 1958 For Your Precious Love, che era scritta da Jerry Butler. Curtis Mayfield era ancora veramente piccolo e supportava solo il gruppo insieme al resto del coro. E For Your Precious Love fu appunto un grande successo che raggiunse addirittura la terza posizione, il gradino più basso del podio nella classifica R&B, E cosa molto importante e non molto usuale ai tempi, riuscì anche a ottenere un'ottima posizione nella classifica pop, raggiungendo l'undicesima posizione. E quindi andiamoci ad ascoltare il primo pezzo dove compare ufficialmente Curtis Mayfield qui a fianco di Jerry Butler con For Your Precious Love, Tonight Alive, Radio Wombat. Questo era For Your Precious Love, il primo grande successo degli Impressions qui con Jerry Butler alla voce principale. E appunto, dopo un altro discreto successo entrato nella top 30 della classifica R&B, ovvero Come Back My Love, Jerry Butler, come si suol dire, salutò la curva e, capito l'andazzo, disse va bene, sono bravo, e andò subito a cercare fortuna con una carriera solista. E dopo un breve periodo di assestamento, dove Mayfield tra l'altro raggiunse Butler nel suo progetto solista suonando la chitarra, Mayfield rientrò negli Impressions e ne prese letteralmente il possesso, perché oltre a diventare la voce solista ne diventerà anche autore delle canzoni. E per sostituire la defezione di Jerry Butler verrà chiamato Fred Cash, un vecchio membro dei Roosters. E dopo un po' di anni, dopo aver affinato le armi con la nuova formazione, riuscirono a trovare un ingaggio con una nuova etichetta e quindi un nuovo contratto, e firmarono con la ABC Paramount nel 1961 e proprio in quel 1961 fecero uscire il loro primo singolo post Butler e si tratta di Gypsy Woman, un altro incredibile grande successo anche per questa che poi alla fine era una nuova formazione, anche se in parte due elementi erano gli stessi, però si può dire che c'era una dinamica completamente tutta nuova, anche solo per il cambio della voce solista, e fu subito un successo anche questa Gypsy Woman, infatti raggiunse la seconda posizione in classifica, nella classifica R&B, e la ventesima nella classica pop chart dei successi pop, quindi un grande successo anche questa Gypsy Woman che ci andremo ad ascoltare subito adesso istantaneamente, ovviamente sempre qui a Tonight Alive Radio Wombat, Gypsy Woman, The Impressions. Say it's all right. It's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Ehi sì, è partita quella dopo, questa era la successiva, vabbè ormai vi ho spoilerato, ma ripartiamo con Gypsy Woman del 1961. With hair as dark as night, her eyes were like that of a cat in the dark, that hypnotized me with love. She was a gypsy woman, a gypsy woman. Danced around and round to a guitar melody. From the fire, her face was all aglow. How she enchanted me. Oh, how I'd like to hold her near and kiss and forever whisper in her. Gypsy woman, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. I hate to see the lady go, knowing know that I love her. I love her. A gypsy woman, a gypsy woman, a gypsy woman, a gypsy Avevo fatto partire il pezzo sbagliato, però vabbè, ormai vi ho spoilerato anche quella dopo, almeno così vi tolgo anche l'effetto sorpresa. Però dopo questo successo di Gypsy Woman del 1961, i successivi singoli degli Impressions non ebbero lo stesso successo e allora i fratelli Brooks decisero anche loro di lasciare la band a metà del 1962. E gli Impressions quindi tornarono a Chicago come un trio e a quel punto vennero affiancati da un nuovo produttore, Johnny Pate, che sarà, come vedremo, una figura fondamentale sia per gli Impressions che soprattutto per Curtis Mayfield, che influenzerà e produrrà poi tutti i successivi lavori del nostro. E a questo punto Mayfield perfezionò le armonie dei singoli all'interno del gruppo, infatti provenendo dal doo-wop era un gruppo, come avete sentito, ancora a questo punto tantissimo legato ai canoni doo-wop, e mise ancora più a punto le armonie vocali dei singoli, facendo proprio quello che poi diventerà il suo marchio di fabbrica, ovvero il suo falsetto, che lo renderà un appunto unico nel suo genere. Racconta Johnny Pate, che tra l'altro, oltre a essere arrangiatore e produttore, era un musicista jazz, proveniva dal jazz, appunto racconterà Johnny Pate di quei primi Impressions, che il gruppo, una volta affinato appunto questo alto queste alte melodie in falsetto, le cose cambiarono letteralmente, era qualcosa che in quel tipo di musica ancora non aveva mai fatto nessuno, e la cosa più incredibile, visto quant'era inusuale, ci racconta, era che tutto era intonato e in perfetta armonia, cosa assolutamente non facile appunto cantando con i registri alti del falsetto. E il primo risultato di questo affinamento vocale fu il singolo del 1963, It's All Right, che fu un'altra bomba, come si suol dire, degli Impressions. Infatti vendette milioni di copie, raggiungendo, conquistando addirittura il disco d'oro, e vinse, cioè arrivò primo in classifica nelle classifiche R&B e addirittura al quarto posto nelle classifiche pop del tempo, e divenne istantaneamente la canzone simbolo dei nuovi Impressions. E It's All Right, appunto, e Gypsy Woman diventeranno gli arieti che lanceranno il primo LP degli Impressions, l'LP omonimo del 63, appunto, The Impressions. E nel 1964 Curtis Mayfield comporrà il suo primo pezzo di cosiddetto orgoglio nero di Black Pride, il suo primo inno diciamo per sé e per appunto il popolo afroamericano, e sarà in quel 1964 Keep On Pushing, che incredibilmente arriverà al numero 10 della classifica pop e il numero 1 della classifica R&B direte anche il pezzo precedente, anche Gypsy Woman era arrivato a questi punti. Sì, però Gypsy Woman era una classica canzoncina doo-wop. Qui invece Keep on Pushing inizia nei testi a infiltrarsi appunto il Black Pride, ovvero erano gli anni della lotta per i diritti civili degli afroamericani, quindi vi potete immaginare. Non era diciamo, era un tema decisamente sensibile, e vederlo arrivare al decimo posto della classifica generalista, ovvero comprata dai dischi comprata dai comprati dai bianchi, appunto, è stato un grandissimo risultato. E con Keep on Pushing uscirà anche l'album successivo degli Impressions con lo stesso nome del singolo, appunto Keep on Pushing. E anche questo album raggiungerà la decima posizione in classifica in entrambe le classifiche, appunto. E a questo punto, da qui a tutte le future composizioni di Curtis, i suoi testi delle canzoni vedranno via via incrementare l'impegno sociale e politico a favore della lotta per i diritti civili degli afroamericani. E sentiamocelo questa doppietta con It's Alright del 1963 e Keep on Pushing del 1964, ovviamente sempre degli Impressions, e qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Say it's all right. It's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. We're gonna move it slow. When lights are low, when you move it slow, it sounds like a moan, and it's all right. Kinda pad your feet. You got soul, and everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do. Come to you and say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You got soul. And everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. Someday I'll find me a woman who will love and treat me real nice. Then my rose got to go, and my love she will know from morning, noon, and night. And she's got to say it's alright. Mm-hmm. Say it's alright. Keep on pushing. Keep on pushing. keep on pushing. I can't stop now. Move up a little higher. Some way or somehow. 'Cause I've got my strength and it don't make sense not to keep on pushing. Now maybe someday I'll reach that higher goal. I know I can make it with just a little bit of soul. 'Cause I've got my strength and it don't make sense not to keep on pushing. Now look a look, look a look, a look a yonder. Oh, what's that I see? A great big stone wall stands there ahead of me. But I've got my pride. Queste erano It's Alright e Keep On Pushing degli Impressions. E in quella metà degli anni 60 ormai gli Impressions venivano paragonati con mostri sacri della Motown come i Temptation di Eddie Kendrix e di David Ruffin, oppure con i Miracle, paragonati ai Miracles di Smokey Robinson o ai leggendari Four Tops. Insomma, erano nella, cioè, come se si può usare un paragone calcistico, erano nella Champions League della musica black. E Mayfield in quegli anni, giustamente, come direi la maggior parte dei neri, era arrabbiato e sentiva il dovere sia sociale che politico di dare appunto il suo contributo alla causa dei diritti civili. E iniziò a questo punto a scrivere materiale di nuove canzoni una dietro l'altra, appunto su questo sentimento giustamente imperante in quegli anni. Però considerando anche che appunto frequentava le stanze della zona alta della classifica della musica generalista, ovviamente erano messe in maniera molto, molto intelligente per farle arrivare alla maggior parte del pubblico possibile, tutto temi ovviamente prettamente sociali, mascherati e supportati da musica gospel, R&B e soul, servite ovviamente con il suo tipico stile chicagoano. E appunto sempre in quella metà degli anni 60 Mayfield scrisse tre canzoni che definiranno la sua visione autorale appunto in quel periodo. E dopo la appena ascoltata Keep On Pushing sarà il turno di People Get Ready e di We Are A Winner, tutte pensate come tantissime poi sue canzoni successive per insinuare il tema sociale nelle classifiche pop del tempo. E non è appunto per questo motivo, non c'è da stupirsi che il reverendo Martin Luther King amasse letteralmente il lavoro di Curtis Mayfield. Infatti il reverendo abbraccerà People Get Ready e Keep On Pushing come inni non ufficiali del movimento per la lotta dei diritti civili. E adesso andiamoci appunto ad ascoltare il potente gospel di People Get Ready, registrato dagli Impressions nel 1965, sempre a Tonight Alive, Radio Wombat. The train a coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the dealers humming. Don't need no ticket. You just thank the Lord. For the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board 'em. There's hope for all among us love the most. People Get Ready del 1965 con il treno diretto verso il fiume Giordano, come potete ovviamente metaforicamente parlando potuto sentire. E nel 1967 gli Impressions registreranno We Are A Winner, un'altra canzone di Mayfield che avrà una vita propria al di là del music business, una canzone che ancora più diretta in confronto ai suoi precedenti inni per i diritti civili. E appunto questa volta era proprio espressamente pensata per un pubblico afroamericano. E Mayfield, qui nelle vesti anche di produttore, registrerà appunto We Are a Winner proprio di fronte al pubblico, registrandola in presa diretta per non perdere neanche un briciolo di quell'emozione, di quelle sensazioni che il popolo afroamericano riusciva a mandare in quel periodo di lotta. E addirittura, pensato un po', We Are a Winner era talmente diretta con il suo testo che le radio decisero, durante le rivolte del 1967, di vietarne la diffusione per via del suo testo, in questo caso non più tanto mascherato da treno verso il Giordano, considerato provocatorio e che incitava appunto alla rivolta i neri di quell'America in subbuglio del 1967. E allora andiamocela ad ascoltare subito questa We Are a Winner, qui nella versione estesa 1967, Curtis Mayfield and the Impressions, a Tonight Alive, Radio Wombat. cane del demonio ci hanno censurato pure noi, perché dopo un pippone che vi avevo fatto sui testi che erano vietati durante i riot del 67 per via del loro significato, del loro istigare alla rivolta e tutto quanto... Ecco, questa era la versione strumentale che passava nelle radio a quel tempo, perché anche se i testi erano molto forti, appunto erano sempre sotto una, diciamo tra virgolette, major come la ABC Paramount, e quindi il disco doveva comunque andare in rotazione nelle radio, e avevano fatto scaltramente questa versione strumentale di We Are a Winner degli Impressions. E allora, compitino per casa, per quelli che poi si saranno appassionati appunto delle vicende dei nostri, andare a risentirsi assolutamente la versione vocale, appunto quella originale cantata dagli Impressions con il suo testo di rivolta. Compito per casa, la prossima volta vi interrogo. Non è mai vero, io non studiavo mai, quindi non lo farò mai. Bene, e appunto, giusto per darsi una misura, come si suol dire, della sua statura economica, che come potete ben immaginarvi in America e nel mondo occidentale comunque al suo significato, Curtis Mayfield lanciò due piccole etichette sussidiarie della ABC, ovvero la Windy Sea Records, dove chiaramente Windy Sea è Windy City, ovvero Chicago, e la Mayfield Records, con alcuni successi del 1966. Comunque Mayfield, nonostante avesse lasciato la high school per intraprendere appunto la carriera musicale, sapeva bene come prendersi cura del proprio business, dei propri interessi economici, e a quel punto si circondò lui stesso con persone che erano non contente del loro trattamento per le royalty nelle major, e fondò proprio una sua etichetta personale nel 1968, la Carlton Records, che appunto, una volta fondata questa etichetta, richiamò anche il suo vecchio amico e in questo caso partner in crime nel business della Carlton, Jerry Butler, e infatti insieme fondarono la Carlton Records. E appunto andiamoci a sentire due pezzi di quel periodo, uno tratto dalle piccole etichette sussidiarie citate prima, in questo caso You Have Been Cheating del 66 degli Impressions, e poi un'altra canzone sui diritti civili del 69 con la, in questo caso già con la sua Carlton Records, Choice of Color. Ovviamente sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. I'm trying hard to forget that you've been cheating, wishing you had never met, 'cause you've been cheating. Did you realize, can't be seen in your eyes, and from home you'll never be free. No use in crying, you've been lying, you've been cheating. Cheating on me. darling, I know. Ooh, ooh, you don't want me. Cookies crumble, and that's how it goes. Ooh, ooh, you don't want me. E queste due erano You Have Been Cheating del 1966 e Choice of Colors del 1969, quest'ultima sulla nuova etichetta personale di Curtis Mayfield, la Cartom Records. E con l'arrivo del nuovo decennio, con l'arrivo degli anni 70, arriva anche il momento per Curtis Mayfield di lasciare gli Impressions e fare il grande passo come artista solista. E nel settembre del 1970 uscirà quell'album leggendario e un autentico, quantomeno per me, disco da isola deserta, che è appunto l'esordio solista di Curtis Mayfield, ovvero Curtis, e prodotto dallo stesso Curtis Mayfield insieme all'aiuto del sempre fido Johnny Pate come produttore. E appunto verrà prodotto per e licenziato per la sua Cartom Records. Lo stile musicale appunto di questo debutto vedrà le sonorità muoversi anni luce avanti rispetto al pop soul degli Impressions. E in questo esordio solista appunto si trovano massicissime dosi di funk e di psichedelia, e chiaramente l'album è pregno dei significati e dei messaggi politici e sociali del tempo, appunto. E Mayfield si rimette in pari con i tempi, che per l'ultima volta vedono i neri, ovvero Jimi Hendrix, Sly Stone, i primi Funkadelic, mandare in solluchero il pubblico ormai pressoché esclusivamente bianco del rock. Con la vocazione ecumenica che lo contraddistingue, seguita tuttavia a parlare pure e soprattutto al ghetto. Se la sua carriera solista sguazza in laghetti d'acido lisergico, il basso è funk allo stato brado, le percussioni rutilanti sono florilegi dell'Africa, i fiati sono come delle lamate, mentre gli archi ingentiliscono con una seduzione da magnaccia. E se il bianco resta un fratello, magari un fratello che sbaglia, il nero si è stancato di porgere l'altra guancia. Vedi un po' tu che si può fare, signore, perché noi, con rispetto parlando, ci saremmo anche rotti i coglioni. E Curtis è letteralmente una bomba d'album che infila un gioiello dietro quell'altro. La prima, l'apertura, l'ha già ascoltata come sigla, Don't Worry If There Is A Hell Below Where I'll Go, Where All Gonna Go, lo ha preceduto sul singolo con lusinghieri risultati commerciali. Però questo pezzo è seguito da un'apoteosi nella meditativa sinfonietta di We the People Who Are Darker Than Blue, che è la canzone che praticamente ha inventato D'Angelo, non Nino ma il cantante R&B americano, seguita poi dallo swingante pop di Move On Up, che è la canzone che praticamente ha inventato gli Style Council, e nella tenerezza languinosa di Miss Black America, che è una delle mille mila canzoni del nostro che hanno praticamente inventato tutto Lenny Kravitz. E solo Shaft di Isaac Hayes riuscirà a spodestare Curtis dalla prima posizione in classifica, vertice che poi A sua volta Shaft verrà detronizzato da niente poco di meno che What's Going On di Marvin Gaye, giusto un attimo per farvi capire che anni erano e con chi ti dovevi confrontare se volevi arrivare appunto sul podio delle classifiche. Hai detto niente. E quindi non mi inutile dirvi che sarebbe un disco da mandare in toto, tutto dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima nota, ma vi risparmio solo per stavolta e quindi ve ne farò sentire giusto un paio, considerando che una ve l'ho infilata come sigla, e adesso una di seguito a quell'altra ci andremo a sentire We Are The People Darkened Than Blue e subito dopo Move On Up, chiaramente qui a Tonight Alive e sempre sulle frequenze della mitologica Radio Wombat. We're gonna stand around this town and let what others say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. Hi, yellow girl, can you tell? You're just the surface of our dark deep well. If your mind could really see, you'd know your color is same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory. I tell the whole story. We'll be right back. Now I know we have great respect for the sister and mother. It's even better yet. But there's the joker in the street, loving one brother and killing the other. When the time comes and we are really free, there'll be no brothers left, you see. We people who are darker than blue, don't let us hang around this town and let whatever say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? Pardon me, brother, while you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story. Pardon me, brother, I know we've come a long, long way. But let us not be so satisfied, for tomorrow can be an even brighter day. una doppietta veramente fantastica questa. Queste erano We Are The People, Darker Than Blue e Move On Up dall'esordio solista Curtis. Detto, fosse stato per me, questo è un disco proprio da mettere tutto dalla prima all'ultima nota, ma visto che sono qui da solo e non c'è nessuno a controllarmi e a darmi bacchettate, mi devo limitare da solo, perché sennò già faremo notte in questo caso. Se vi facessi sentire anche tutto Curtis si farebbe proprio mattina, quindi a malincuore diciamo che la parentesi Curtis si chiude qui. E tempo neppure un anno, Curtis Mayfield manda nei negozi altri due LP. Il primo sarà un album dal vivo, un riassunto, Curtis Live, un anfetaminico mischione di cavalli di battaglia, degli Impressions e di nuovi brani, con una rarità di peso nella conclusiva Stone Junkie, che ci andremo tosto a sentire direttamente da Curtis Live, Stone Junkie Live del 1971 in quel Bitter End di New York, ovviamente a Tonight Alive Radio Wombat. Here's something that I know everybody knows about. I ain't gonna point no fingers. So I don't want nobody to point no fingers. But right on, yeah. I think it'll break it down. Have now arrived in this nation. There's now a people with a different relation. Black and white, yellow, red and blue, all in the same bag. We know it's true. They're just stone junkies, stone junkies, stone junkies. Stone junkies. Don't let your mind become offended, Miss Lady, 'cause you ain't no better than our typical Sadie. You just got money you can spend out at will, but when come aches and pains, you still use the pill. I don't mean nothing. Stone junkie, stone junkie, stone junkie, stone junkie, one more. Stone junkie, stone junkie, stone junkie, stone junkie. I know everybody whose heart is still thumping. He died. That a beat is. I know everybody whose heart is still thumping is drinking, shooting, snorting, or smoking on something. Yeah. I feel like I fell in a hole. You know, that hit home everywhere. Now that might sound funky, so I don't mean to mislead. So you can retract the thought of you on drugs or on weed. That ain't my business, you know what you do. I'm just singing for the majority of you. Should I say Mr. Stone Junkie? My fellas, a great big round of applause. Questa era la versione live di Stone Junkie del 1971. E l'album in studio si chiamerà Roots ed è di un non nulla inferiore al debutto e quindi ovviamente meraviglioso. e dalle voci orgasmiche, dalle chitarre psichedeliche di Get Down alla colata di miele di Love to Keep Your to Keep You in My Mind, fino allo Zenith, che è un proclama di concordia di Beautiful Brother of Mine, e sono 37 minuti di puro psychedelic soul, un po' seguendo la linea appunto dello psychedelic soul di Sly and the Family Stone. E questo roots c'entra in pieno il bersaglio, è ancora una volta un album che incoraggia la presa di coscienza sociale, ma che anche ascoltandolo ti fa prendere, alzare in piedi e ti fa mettere a ballare. E con Roots Mayfield mette tutto quello che ha sul tavolo, e non c'è nessun altro album che riesce a darvi le dolci melodie di uno Stevie Wonder, mettendole insieme ai giusti toni di un Marvin Gaye. In questo album Mayfield sarà proprio l'artista, il produttore e l'attivista al suo meglio. La voce è come sempre... sono sempre di tono molto alto, con il suo marchio di fabbrica, la sua voce in falsetto, che in questo caso assomiglierà molto a un sussurro, quasi a un pianto. E con questo album Curtis Mayfield dipinge proprio la vita degli afroamericani dopo il Civil Rights Act, che è appunto la legge con cui sono riusciti a farsi riconoscere quantomeno una parte dei diritti civili ai quali aspiravano dopo tutte le rivolte del 68, e appunto il Civil Rights Act verrà fatto nel 1968. E con questa chiave sperimentale riuscirà a innescare ancora più il funk dentro le sue canzoni. Questo era un modo di operare e di costruire appunto le canzoni tipiche di pochi altri musicisti neri capaci di farlo a questo livello. Uno tra questi mi viene in mente da jazzista Miles Davis, e appunto musicisti come Davis e Curtis Mayfield sapevano bene l'effetto che facesse mixare insieme percussioni africane e chitarre psichedeliche. Nella sensualissima Get Down, che in parte è, diciamo, affiliabile a delle sonorità come quelle di If There Is a Hell Below, aggiungerà anche delle chitarre distorte è un tempo più veloce del suo normale. Altre canzoni come Keep On Keeping On e We Got To Have Peace sono anch'esse dei classici del repertorio di Curtis Mayfield, per poi non parlare di quell'incubo post-apocalittico che è Underground. E la produzione in studio è come sempre affidata al grande Johnny Pate, in questo caso in un autentico esercizio di massimalismo, con le arpe, con i corni, le percussioni, i clarinetti, gli archi e i sassofoni, che pompano il suono di Mayfield con costanza e spedendo il suo messaggio culturale verso tutti. E da questo altrettanto grande album, sentiamoci un'altra doppietta, in questo caso The Underground e Get Down da Roots di Curtis Mayfield, ovviamente qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Underground, we now have to deal with our own self-destruction. We cannot live on the surface of our earth any longer. There is now pollution in every natural mineral and material taken from the land. We have truly become a vast wasteland. And now underground, how will we deal with our society of discrimination among people? Near to hell, it's just as well. What will become of our children? Underground. We'll be right back. Radio Wombat. Get down. E questa era la doppietta selezionata per voi da me medesimo di Roots di Curtis Mayfield. Ma i primi anni 70 sono anche gli anni della Blaxploitation, i movimenti per i diritti della popolazione nera sfruttarono il cinema di genere come mezzo di propaganda, ovviamente. Si girarono polizieschi con investigatori neri, cattivi neri e belle donne nere, dai ghetti e per i ghetti, con una crudezza, una violenza e una realtà ancora in parte sconosciuti ai modelli dei visi più pallidi, e anche con molto più sesso, tra l'altro, nei film rispetto alla media del periodo, spesso con eccellenti colonne sonore, anzi colonne musiche, come sempre mi ricorda la cara Virgi. E capostipite di questo fenomeno è senza dubbio Shaft di Gordon Parks, con le musiche di Isaac Hayes. E un anno dopo Shaft, nel 1972, Mayfield darà alle stampe Superfly, la musica per l'omonimo film. E delle nove tracce solo due sono classici temi strumentali da film, le altre sono vere e proprie canzoni, a differenza di come aveva fatto precedentemente Isaac Hayes con Shaft, e corrispondono più o meno alle sequenze del film. Curtis, un narratore atipico, ci guida dietro al giovane e potente spacciatore e pappone Youngblood Price, e contemporaneamente ci regala il miglior funk stradaiolo che si conosca, a base di bassi sornioni, fiati invasati e una delle più belle voci di sempre. Little Child Running Wild è il prologo della vicenda e una chiara dichiarazione di intenti del film e della colonna sonora. In Pusherman invece comanda un basso serafico su cui giocano timide le chitarre. Fred is Dead, un altro capolavoro, arriva in vetta alle classifiche e non vince un Oscar solo per colpa del solito perbenismo dell'America bianca. Più tradizionale delle altre due, si distende con plateali fiati spiegati, solo queste ultime due canzoni basterebbero a rendere Superfly un ottimo disco e a consacrare la formula di Mayfield, geniale sintesi del funk di Isaac Hayes, dei suoi testi consapevoli e del tocco magico del Curtis Performer su tutto il modo delizioso in cui noterete che pronuncerà la parola Pusherman. E con Nothing on Me, la Cocaine Song, un sottilissimo falsetto, echi melodici da cui una certa disco saprà imparare molto. Solare come nessun'altra prima, ma ambigua fin già dal titolo. Superfly, pompatissima e con una strepitosa chitarra in secondo piano, ci riporta sulla strada e il sipario cala da dove si era alzato. E un'altra doppietta da questo mitico Superfly, ci sentiremo adesso Pusherman e Nothing on Me, The Cocaine Song, ovviamente sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. We'll be right back. just in the bed. I'm your pusher man. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Wombat. I've met many people over the years, and in my opinion, I have found that people are the same everywhere. They have the same fears, shed similar tears, dying so many years. The oppressing have suffered the most in every continent, coast to coast. Now our lives are in the hands of the pusher man. We break it all down in hopes that you might understand how to protect yourself. Don't make no profit for the man. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. You're something kind of funny. How the man Queste erano le due bellissime canzoni tratte dalla colonna musica di Superfly, ovvero Pusherman e Nothing on Me, Cocaine Song di Curtis Mayfield. E Curtis non riuscirà mai più ad eguagliare l'impatto e la pregnanza, passatemi il termine, di questi tre straordinari dischi. La sua carriera poi sarà un dolce ma inevitabile declino, anche se magari i dischi del triennio 73-75, ovvero Back to the World, Sweet Exorcist, Got to Find a Way e There Is No Place Like America Today, contengono ancora qualche pezzo discreto. Mayfield comunque fu attivo per tutti gli anni 70 e 80, sebbene preferisse mantenere un profilo piuttosto basso. E il 13 agosto del 1990, durante un concerto a Brooklyn, una parte dell'impianto di illuminazione del palco cadde addosso a Mayfield, fratturandogli la colonna vertebrale e paralizzandolo dal collo in giù. Nonostante questa tragedia, Curtis riuscì comunque ad andare avanti, pur essendo ormai incapace di suonare la chitarra, riuscì a scrivere e a cantare, pur con grande sofferenza, e a dirigere le registrazioni dell'album del suo ritorno, ovvero New World Order del 1997. E l'ultima apparizione di Curtis Mayfield in un disco ufficiale sarà insieme al gruppo Brown Van 3000 con la canzone Astound del 2000, dal loro album del 2000 Discosis, e che sarà registrato prima della morte di Curtis Mayfield, ovviamente, e pubblicato nel 2001. Comunque la sua salute e le sue precarie condizioni fisiche dovute alla paralisi, le voci contenute in questa canzone non sono la voce contenuta in questa canzone non è nuova, perché comunque sono state prese da un archivio di registrazione e editate poi nella canzone, appunto, dei Brown Van 3000. E Curtis Mayfield lascerà questa valle di lacrime il 26 dicembre del 1999, a pochi giorni dal nuovo millennio. E appunto, come ultimo brano della lunga puntata di stasera su Curtis Mayfield, ho scelto appunto quest'ultimo cameo di Curtis nella per me bellissima canzone di Brown Van 3000. Ve l'ho messa proprio perché ci sono particolarmente affezionato, cioè ero particolarmente affezionato nella mia pischellaggine, e la trasmissione la fui io, quindi anche se non vi piace ormai ve la dovrete puppare, come si dice, e quindi questa è la versione estesa, la versione completa di Astound dei Brown Van 3000 con l'ultimo contributo registrato del mitico Curtis Mayfield, ovviamente sempre qui a Tonight Alive Radio Wombat. Brown Van 3000 featuring Curtis Mayfield, Astound. Thank you. Ero qui proprio a ballare come un cretino, meno male non c'è anche la diretta video, non si farà mai, perché tanto se no poi ci rinchiudano tutti, meglio così. E siamo giunti alla, finalmente direte voi, alla fine della puntata di stasera, e come sempre ho selezionato per voi un concerto di Curtis Mayfield. Però prima appunto di presentare questo concerto voglio ricordare agli amici ascoltatori le dirette, la prossima diretta di Radio Wombat, che sarà con La Fuga del Gatto domani domenica, per rincuorarci dalle fatiche del fine settimana, il programma di musica classica di Radio Wombat. E poi, come sempre, ormai la trasmissione del sabato sera, purtroppo ve le devo dare mentre stanno succedendo, però stasera non vi perdete This Is Soul al CSA Next Emerson di Via di Bellagio, grande musica soul, e con concerto e DJ set annesso. Siete ancora in tempo, anzi arriverete al clou, prendete e andiamo, perché anch'io mi sto per dirigere là appena finisce la trasmissione. E il concerto di stasera, un po' da paraculo, ve l'ho diciamo in parte già presentato, perché è il famoso album live uscito dopo Curtis, che in questo caso si chiama Curtis Live, che è appunto un live del nostro al Bitter End di New York del 1971, un concerto favoloso, come detto in trasmissione, pieno dei suoi classici, sia con gli Impressions ma anche di quando era solista. E visto che non li ho nominati neanche una volta, vale la pena ricordare i grandi musicisti che accompagnavano Curtis Mayfield, la band di Curtis Mayfield, ovvero oltre ovviamente a Curtis alla chitarra e alla voce, la seconda chitarra era Craig McMullen, il banjo era Joseph Lucky Scott, la batteria Tyrone McCallan, e alle congas e ai bongos e alle percussioni Harry Gibson, ingegnere del suono in questo caso di questo concerto Eddie Kramer. E non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon sabato sera e ci risentiamo tosto settimana prossima sempre qua sulle frequenze di Radio Wombat. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici qui dal vostro Penafoco Dalai Lama e alla prossima Wombat!